Soft peanuts, soft peanuts. Soft peanuts, soft peanuts. Soft peanuts, soft peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Soft peanuts, soft peanuts. Soft peanuts, soft peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi ascolteremo tre novità, tre dischi usciti recentemente di qualità a mio avviso elevata. Il filo conduttore che può unire questi tre lavori è una pianista, a mio avviso una pianista tra i musicisti più interessanti dell'ultima generazione, tra i più attivi e più bravi attualmente in circolazione. Si tratta di Chris Davis, che non è leader di nessuno di questi tre dischi che ascolteremo, ma partecipa in vario modo a questi. Il primo che ascoltiamo, dal quale ascoltiamo un paio di brani, è un disco di Rob Mazurek. Mazurek, che ormai ci ha abituati a una produzione forse eccessiva, a molti, molti progetti, molte pubblicazioni a suo nome, di alterne qualità. Lui è sempre sicuramente molto bravo, molto comunicativo, però poi i contesti, come dire, premiano delle volte non adeguatamente quelle che sono le sue qualità. In questo caso è un progetto ben riuscito, si intitola Desert Encrypts ed è una sorta di suite composta di più movimenti, ma soprattutto la cosa interessante è la formazione. È una formazione in quartetto con l'aggiunta anche in alcuni momenti di una voce recitata, quella di Lin Xu, ma il quartetto è formato, un inedito direi per perlomeno a livello di incisioni discografiche per Mazurek, perché viene accompagnato dal pianoforte appunto di Chris Davis, da Chad Taylor alla batteria. Chad Taylor, musicista col quale collabora anche in un duo ormai da molto tempo, e poi anche in diverse altre occasioni, e poi al contrabbasso Ingebright Hackenflatten. È un bel quartetto questo, ben riuscito, ben equilibrato e quindi anche una capacità di comunicazione di alto livello. Direi che una parte importante l'ha sicuramente Chris Davis, proprio perché condiziona un po' la vena espressiva di tutto questo lavoro. Ascoltiamo, questo tra l'altro è uscito come volume 1, quindi si presuppone che questo progetto abbia un continuo, perlomeno prima o poi lo vedremo alla luce sicuramente. Comunque ascoltiamo i primi due movimenti da questa composizione Encrypt. Thank you. Thank you. Questo era il quartetto di Rob Mazurek, Desert Encrypt, il volume 1, un disco uscito per la Astral Spirits. Interessante, come abbiamo ascoltato, anche ben costruito da un punto di vista della forma, diciamo. Un'altra novità, un altro dei protagonisti sulla scena internazionale, Ben Goldberg, clarinettista soprattutto, e devo dire che è un musicista che ho sempre apprezzato molto. Ha una provenienza, una formazione di tipo klezmer, quindi ha dato vita alla New Klezmer Trio, e questo a suo tempo per la collaborazione con John Zorn. Ma ormai da tempo si muove autonomamente, insomma, anche in territori particolari, con formazioni spesso diverse. In questo caso è uscito una sorta di gruppo, come dire, di quartetto, oppure forse trio più uno, di cameristico, perché è con l'assenza di batteria e basso. E è una formazione abbastanza strana. Infatti Ben Goldberg, che suona tutta la gamma dei clarinetti, e viene accompagnato dalla chitarra di Neis Klein e dalla tromba di Ron Miles, musicisti veramente di alto profilo. Ron Miles è sempre più attivo, con una sonorità sempre più vicina al flicorno, insomma, scura, molto rotonda, molto bella. E poi la chitarra di Neis Klein, che è decisamente ricchissima di inventiva, di creatività. Poi si aggiunge appunto un rumorista, insomma, typewriter, quindi musicista della macchina da scrivere in alcuni brani. Ma dicevo che è un lavoro che percorre una sorta di evocazione, anche di una sorta di storia del jazz raccontato, o di storia della musica americana raccontata appunto per segmenti, per sprazzi. Anche i brani sono fatti di più movimenti, di più momenti. Il risultato, a mio avviso, è molto affascinante. Sicuramente è un disco di studio, un disco che non è fatto per essere di grande successo, questo è evidente, ma decisamente positivo. E, dicevo, il filo conduttore, che era appunto Chris Davis. In questo caso Chris Davis non suona, ma è il produttore di questo disco. Il disco è intitolato Good Day for Cold Fishing. Ascoltiamo tre brani. Thank you. Questo era Ben Goldberg con quest'ultimo progetto intitolato Good Day for Cloud Fishing. È un disco edito per la Pyroclastic, un'etichetta che è sempre più presente su quelle che possono essere appunto proposte un po' di confine, di ricerca, sicuramente non di grande impatto nel largo pubblico. Comunque un lavoro ben riuscito. Altro progetto particolare, l'ultimo disco per oggi, Noah Preminger, il gruppo di Noah Preminger, sassofonista del quale ho parlato in diverse occasioni, della nuova generazione, ormai ha superato i 30 anni, e quindi non è certo vecchio, ma è molto attivo, ha prodotto un numero considerevole già di lavori a proprio nome, anche alcune partecipazioni in altre formazioni. Comunque sta cercando delle strade che lo pongono in un territorio diverso da quello che più facilmente poteva essergli ascritto, che era quello di un mainstream di grande livello, di grandi qualità tecniche, ma pur sempre legato a un ascolto di una certa facilità. Ma sempre più sta cercando appunto territori diversi, dicevo, e in questo caso si presenta con un progetto strano, un gruppo chiamato Zig Show, Diciamo, il progetto è Zigshow, Music of Steve Lampert, che francamente non so chi sia. Comunque, questo credo che sia anche poco importante, ma la cosa strana è un unico brano. Questo Zigshow è un unico brano che dura quasi una cinquantina di minuti e che con un unico tema, però sviluppato in diverse situazioni diverse, e diverse situazioni, insomma, timbriche e anche così di dinamica del suono, risultano ben riuscite. Ecco, perlomeno la mia valutazione è che sicuramente è un lavoro da ascoltare. E la formazione è particolare. Intanto si nota, come spesso accade, Jason Palmer alla tromba, è un collaboratore di Preminger, oppure anche Preminger un collaboratore di Palmer, a seconda poi delle occasioni, ma collaborano frequentemente questi due musicisti. Palmer alla tromba, John O'Callaghan al sax contralto, che si aggiunge quindi un altro sax, poi Chris Davis, appunto, come si diceva, un punto di collegamento con anche gli altri lavori precedenti, Chris Davis al pianoforte, anche in questo caso molto importante la sua presenza, poi alle tastiere anche altre sonorità, Rob Schwimmer, poi alla ritmica, Kim Cass al contrabbasso e Rudy Royston alla batteria, una batteria di grande prestigio e anche di grande affidabilità. E ascoltiamo la parte conclusiva di questa lunga suite, anche per capire un po' con quale dinamica viene affrontato questo tema, questo lungo percorso in un'unica situazione, che dà anche spazio appunto ai solisti di esprimersi in più occasioni a dei livelli molto, molto alti. E diciamo che lo schema anche dell'assolo è sempre quello di iniziare con un certo accademismo, un certo livello contenuto, per poi svilupparsi con un'aggressività, una dinamica sempre più potenti, sempre più forti, sempre più sostenute poi dalla batteria di Rudy Royston. Oh,

Sal peanuts. Jazz on megahertz. Sal peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.